Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buoni o cattivi, canta Vasco, ma io dico dipende. Dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende, dipende. E dopo Vasco e Araba da Palo arriviamo al dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano, esperto del nostro Daily Lab, che è qua in studio con me. Buongiorno. Buongiorno, bella la tripletta però, dai, Vasco è carina, Araba da Palo e io, sono carina, bella, mi piace. Perché noi parliamo di grasso e di grassi, di quelli che vediamo e di quelli che non vediamo. Una cosa però è certa, non bisogna fare di ogni erba un fascio, perché, dottor Speciani, molti di noi vivono i grassi come i diretti responsabili dell'aumento di peso, altri invece li guardano con grande sospetto perché pensano che siano loro a far aumentare il valore di alcuni indicatori, come ad esempio il colesterolo e i trigliceridi, che noi sappiamo sono delle spie importanti del nostro stato di salute. Ma io direi, se lei è d'accordo, soprattutto se sono d'accordo i nostri amici da casa, di provare oggi a liberarci un po' di tutti i luoghi comuni che nel corso della nostra vita abbiamo accumulato sul conto dei grassi e di rimettere un po' la palla al centro, perché credo che conoscere i grassi sia un buon inizio per godersi il cibo e seguire al tempo stesso una dieta bilanciata. Voi a casa, in macchina, che ci state seguendo dall'ufficio, per voi che ci scaricherete, potete comunque seguirci su Facebook e su Twitter, state pronti perché oggi ne scopriremo delle belle. Intanto vi ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24. Allora, dottor Speciani, iniziamo un po' a rivalutarli, perché senza grassi la nostra vita sarebbe magra. Intendo magra dal punto di vista del sapore, dell'energia, della varietà, di vitamine. Qui io non sono per niente d'accordo, no, nel senso che noi abbiamo una delle esperienze più rilevanti a livello sociale, direi, e epidemiologico mondiale, come il fatto che gli Stati Uniti abbiano virtualmente limitato e ridotto i grassi presenti nei cibi per lunghi anni, proprio su questa falsa visione, cioè che i grassi fossero l'elemento ingrassante. Siccome sono più calorici del resto, è chiaro che nel momento invece in cui qual è il risultato? Il risultato è che gli Stati Uniti sono il paese più obeso, ciccio. Più ciccio, quindi non è vero, anche se tu hai la possibilità di scegliere qualsiasi cosa praticamente a grassi zeri, in realtà proprio per questo motivo, quando tu elimini completamente i grassi, in realtà si sviluppa una situazione in cui aumenta proporzionalmente il rapporto di altri nutrienti che possono proprio loro determinare un incremento dei grassi del sangue. Non è che tu mangi grasso e metti dentro grasso, a volte tu mangi carboidrati in eccesso e li trasformi in grasso. Ti racconto più tardi la storia della patata, che forse ci aiuta a capire. Tra l'altro, dottor Speciani, i grassi sono anche utili per trasportare le vitamine liposolubili. Assolutamente, noi se pensiamo a quanto sia rilevante, oggi abbiamo delle carenze, ad esempio io che lavoro anche a Londra, là c'è una grossa problematica dove c'è meno sole legato ad una carenza di vitamina D3 e dall'altra parte abbiamo persone che seguono diete in cui via il rosso d'uovo, che è un massimo contenitore di vitamina D3, perché è cattivo, non è vero, non è cattivo, via il burro, anche quello crudo, buono, fatto bene, no? Che contiene vitamina D3, e si arriva a delle riduzioni sostanziali che non hanno motivo di essere. Elisa ci scrive al 349-238-6666, ma non è peggio lo zucchero? Quello sì che fa ingrassare. Ecco, brava, è quello che ho detto prima, cioè togliere i grassi, ad esempio, da una composizione varia di un'alimentazione, significa che crescono in maniera proporzionale i carboidrati. E giustamente la nostra ascoltatrice dice: ma gli zuccheri, è vero, un eccesso di zuccheri porta poi ad un accumulo di grasso che noi teniamo come grasso di scorta, e quindi vedi che dobbiamo ribilanciare in un certo senso la nostra scelta. Non è il grasso cattivo di per sé, è quello che usiamo male, quello che è fatto male, anche se non tutti i grassi, devo dire, poi alla fine sono cattivi. Infatti oggi vogliamo proprio parlare dei grassi per mettere un po' la palla al centro, come dicevamo, conoscerli meglio. Parleremo dei grassi che vediamo, quelli che portiamo sulla nostra tavola, mettiamo in padella, Parliamo anche però dei grassi che non vediamo, di quelli invisibili, di quelli che circolano dentro di noi, o del grasso che notiamo quando ci guardiamo allo specchio, che ha una distribuzione diversa da persona a persona. Ma torniamo ai nostri grassi, quelli che possiamo usare, che aggiungiamo ai nostri cibi per condimento, per preparare i nostri piatti. Ci sono grassi e ugrassi, dottor Speciani, lei diceva che sono fondamentali, non bisogna abolirli perché sennò si creano degli squilibri, ma bisogna anche sceglierli bene. Per sceglierli bisogna sapere che di grassi ce ne sono diversi tipi. E infatti, quindi adesso arriviamo soprattutto a capire, qui ti racconto la storia della patatina fondamentalmente, nel senso che quando si possono mettere, quando noi abbiamo una patata a un indice glicemico, cioè tende a far ingrassare, se è molto bollita in maniera molto ampia, quasi come il pane bianco, quasi come lo zucchero. Se vado invece ad utilizzare sopra, a tenerla indietro di cottura, mantenerla con la sua buccetta e quindi a ridurne, a metterci sopra un pochettino di olio, ecco che il grasso miscelato con la patata riesce a portarci a degli elementi in cui l'indice glicemico si riduce moltissimo, ed ecco che la patatina un pochettino indietro di cottura con la sua buccetta con sopra un po' d'olio in realtà ci fa del bene, tiene basso il livello. Quindi conta anche con che cosa accompagniamo i grassi, insomma le buone o le cattive compagnie contano. Ci sono degli alimenti che possiamo abbinare ai grassi per rendere i grassi più amici della nostra salute e anche, mi lasci dire, del nostro peso forma. Assolutamente sì, nel senso che noi abbiamo un uso, direi i grassi, soprattutto quelli che noi non vediamo, che vanno a disporsi in modo anomalo, sono i grassi che vanno a disporsi secondo certi tipi di criterio. Ad esempio abbiamo la tipica forma a mela, cioè quando le persone mettono tutto sulla pancia, che è un po' la classica situazione del diabetico, come dire, o di chi ha delle problematiche con lo zucchero, che è legato a certi tipi di assunzione alimentare, a certi tipi di metabolismo, ci danno delle indicazioni di come uno sta funzionando. Oppure se li mettiamo ad esempio sulle cosce o sui fianchi, ed ecco che già sappiamo che è un altro tipo di metabolismo che ci sta guidando. Oppure se è globalmente diffuso ancora, e vedremo che magari ci sono strumenti differenti per intervenire nelle diverse situazioni. E anche in questo caso ci sono, anche per il grasso che si distribuisce sul nostro corpo, c'è un grasso buono e un grasso meno buono, un grasso più pericoloso e uno meno pericoloso. Il grasso addominale, abbiamo detto tante volte, quello che rende le nostre pance sempre più tonde, è un grasso molto più pericoloso di quello che va a finire sulle cosce, diciamo, sul sedere. Non è in sé poverino il grasso in quanto tale, proprio la distribuzione significa che se io lo metto lì, significa che il mio metabolismo sta funzionando poco, significa che c'è una tendenza ad avere un livello elevato di zuccheri, significa che mi muovo poco, anzi spessissimo le persone con la fascia addominale hanno la panciotta grossa e le gambe sottili perché non fanno movimento fisico, no? Quindi ci sono degli elementi di interazione tra gli uni e gli altri che meritano di essere assolutamente considerati. Però poi diciamo che ci sono grassi e grassi davvero, la storia Saturi. Pensiamo a questa storia simpatica degli esquimesi, no? Sì. Gli esquimesi sono, in realtà c'è stato tutto un periodo in cui si diceva chi mangia grassi animali in realtà è predestinato a malattie cardiovascolari. Allora sono andati a scoprire negli esquimesi, i quali hanno una dieta variatissima, mangiano orso fritto e foca fritta, mattina, pranzo e cena, quindi, e talvolta il salmone. Perché uno dice mangiano grassi animali dal mattino alla sera, non usano frutta e verdura, uno si immaginerebbe la morte decisa per malattia cardiovascolare. Invece chi è andato a studiarli ha scoperto che questi vivevano molto di più e non avevano nessuna placca di colesterolo. Perché? Perché usavano del pesce gli omega 3, fantastico. Allora questa scoperta ha rivoluzionato la concezione del fatto che il grasso non è cattivo per sé. Il grasso può essere buono, può essere cattivo, come quelli cotti, insomma, sappiamo. Allora, proviamo, questo tipo di logica. Dottor Speciani, possiamo cercare di aiutare i nostri amici da casa a capire quanti grassi mangiano e che, di che qualità, di che tipo di grassi usano, insomma. Qui ad esempio potremmo anche lanciare un quiz specifico, sì, no? Che potrebbe essere il quiz di oggi, che è quello fondamentalmente di capire ad un certo momento quale possa essere quando l'olio inizia ad alterarsi, perché gli oli crudi tendenzialmente sono tutti abbastanza buoni, quando sono belli fluidi a temperatura ambiente sono simpatici, positivi, hanno dentro un mucchio di cose buone. Allora la domanda che io porrei è doppia, attenti perché è una domanda è a doppio taglio, vorrei dire, no? Quindi una domanda intanto fatta da due domande, per cui il primo è: Qual è l'olio tra quello di oliva, di arachide e di palma che si altera prima con la cottura? Noi sappiamo che quando si genera punto di fumo l'olio si altera e quindi sapere tra olio di oliva, olio di arachide e di palma quale si altera. E la seconda, per chi indovina questo pezzo, è quale tra questi tre oli stessi, quindi oliva, arachide e palma, in realtà, anche se cotto, produce meno danni per la salute. 800 24 0024, se volete intervenire. Dottor Speciani, i nostri ascoltatori devono oggi misurarsi anche davanti allo specchio, perché oggi parleremo anche del grasso addominale e del grasso invece che si deposita sulle cosce, perché ci sono dei valori importanti che non solo fanno bella la linea, meglio rispettarli, ma sono veramente protettivi nei confronti della nostra salute. Sì, diciamo che esiste anche questa bellissima indicazione data sulle circonferenze, che sono due numerini da ricordarsi, che sono 102 centimetri per i maschietti e 88 per le femminucce, per cui se uno ha una circonferenza addominale più alta di questi valori è bene che faccia quattro riflessioni. Devo dire che in maniera più attenta potrebbe essere valutata la percentuale di massa grassa, però già questi sono due indicatori positivi. Che diavolo fai? Mi sto vestendo. Perché saltelli travestita da fantasma? Perché non voglio che tu veda le mie ciccette sballonzolanti. Tesoro, ma questo è un comportamento davvero paranoico, perché io sono affezionatissimo alle tue ciccette sballonzolanti. Davvero? Assolutamente sì. Le ciccette sballonzolanti. E sono quelle a volte che ci mettono così la pulce nell'orecchio e ci fanno dire: bene, sto a dieta. E cadiamo spesso nel tranello, nel pericolo di eliminare i grassi per togliere i grassi. Ma lei, dottor Speciani, ci ha spiegato che a ridurre troppi grassi dalla nostra dieta non si traduce in una perdita di peso. Ma non solo, riprendo, scusate lo stimolo dalle ciccette, riprendo il tema della patatina che ho segnalato prima. Obiettivamente, quando noi usiamo degli oli per ridurre l'indice glicemico di un cibo e quindi ne rallentiamo l'assorbimento, otteniamo il bene dagli oli, da quello che contengono, e un rallentamento della velocità di assorbimento, e per cui facciamo del bene, non ingrassiamo tendenzialmente. Allora questo è importante da conoscere, perché ognuno possa scegliere anche come cucinare, come reinterpretare i piatti, che è una cosa bellissima. Renato da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Niente, io telefonavo per il semplice motivo che faccio molta attività sportiva. Le cosce non sono piccole, sono grosse, perché ho sempre fatto sci, agonistica e anche ciclismo. Sì. Sono 1,75, peso 85, diciamo che sono una struttura molto robusta. Se non sto attento mi si accumula chiaramente del grasso intorno alla pancia. Sono sul fatidica soglia dei 101-102 centimetri, però non riesco a muovermi neanche di un chilo, se volessi scendere da quel fatidico peso. Ecco. Dottor Speciani, eppure Renato si muove, come si muove, dice. Si muove, eppure si muove, assolutamente. Eppure si muove. Però potrebbe avere una genetica, poi la conosco bene, quella genetica lì, che è quella legata a chi ha nella propria famiglia diabetici e storie cardiovascolari. E lì, ad esempio, è importante proprio in queste situazioni continuare a mantenere il movimento e iniziare a lavorare sul valore della prima colazione, che deve essere perfettamente bilanciata tra carboidrati e proteine, e sull'abolizione dello zucchero semplice. Quindi proprio i messaggi, a volte persone così in realtà utilizzano dolcificanti piuttosto che altro, invece il segnale dello zucchero deve sparire. In che stato mi ritrovo? Tutto sommato direi che sei in buone condizioni. Ok. Ma dai tuoi esami del sangue sono risultate un paio di cose che non mi piacciono per niente. So di che cosa si tratta. Il mio tasso di colesterolo è salito a livelli alti. Esatto. E per questo motivo ho chiesto di fare anche un esame dei lipidi. Cliff, hai i trigliceridi a 350, l'IDL è 160 e l'HDL è 40. Sì, ho un po' esagerato. Un po' troppo esagerato. Solo nei weekend. No, il guaio è che sono goloso di ogni tipo di insaccati, quindi mi sono fatto un panino chilometrico e ci ho anche messo, insomma, l'ho rimpinzato di patatine fritte, così quando lo mangio scroccia tutto. Ah, tanto per assaggiare. Sì, un assaggino, non posso resistere, ne vado male. No, non ti preoccupare, un panino, anche se così farcito, non è un'esagerazione. Quattro ne ha mangiati. Dottor Speciani, oggi che siamo proprio alla ricerca dei grassi visibili e invisibili, non potevamo parlare di colesterolo. Quando solitamente diciamo grasso, grasso non visibile, tutti noi pensiamo al colesterolo e tutti lo conosciamo più o meno bene, sappiamo qualcosa di lui. colesterolo è una parte cattiva del grasso, diciamo. È pericolosa per le arterie perché l'accumulo del colesterolo nelle arterie può provocare infarto o ischemia cerebrale. Beh, il colesterolo indica la presenza di grassi nel sangue. Per quanto riguarda il colesterolo indica una presenza, diciamo, un tipo di grassi che ha un'incidenza fondamentale per lo stato di salute di una persona. Il colesterolo penso che sia il grasso, la quantità di grasso che si trova nel sangue. Dottor Speciani, anche per il colesterolo c'è quello buono e quello cattivo. Noi oggi abbiamo iniziato proprio con Vasco e poi abbiamo passato la canzone sul dipende, perché non c'è buono in generale, non c'è cattivo in generale, dipende un po' dal punto di vista e dalla quantità e dalla qualità. Ma sul colesterolo noi sappiamo che non fa sempre male, vero? No, non fa sempre male. E sa, Nicoletta, una delle cose che mi viene immediatamente da intervenire sul sondaggio è che se ognuno di queste persone sapesse che ad esempio i propri ormoni sessuali, cioè quelli che gestiscono anche il drive affettivo, emotivo, sì, nei confronti degli altri, partono dall'esistenza del colesterolo e dalla loro trasformazione, ecco, vedi che già cambiamo vista, sì, no? Cioè, però questo colesterolo. E che poi se uno pensasse che se pensiamo al nostro cervello in peso secco, circa il 90% è fatto da colesterolo, ecco che qualcuno dice, ma forse vale la pena intanto di mangiare del colesterolo buono quando lo mangiamo e non quelli trasformati in maniera strana. E qual è? Se noi mangiamo cibi sani, voglio dire, ogni essere vivente è dentro del colesterolo nelle sue cellule, è chiaro che se io mangio delle sostanze che sono fritte, come dice Benigni in La vita è bella, a quel punto ho dei colesteroli molto trasformati e molto cattivi potenzialmente. E poi c'è questo dato importante che è anche un tema sociale, devo dire, perché in realtà si giocano dei grossi interessi commerciali su questo tema. Ci sono due scuole di pensiero fondamentalmente, quelle che valutano solo il valore di colesterolo alto, elevato. Che ricordiamo, E il colesterolo qui tocca un bel tema, perché il colesterolo una volta era 2,80, poi man mano che nascevano farmaci che lo potevano abbassare, sono diventate prima 2,20, poi 200, e oggi alcuni dicono addirittura che il valore di colesterolo consentito dovrebbe essere intorno ai 180. E quindi ci sono delle tematiche nel corso degli ultimi anni che hanno sfiorato dei problemi. Si è arrivati a capire addirittura da alcuni lavori recenti che a volte l'eccesso di abbassamento del colesterolo può diventare dannoso. Certo. Ed è per questo che io batto nella mia pratica clinica, nelle mie considerazioni, nelle mie comunicazioni, su un discorso di equilibrio e di buonsenso. Noi non abbiamo solo nemici, abbiamo da trovare un equilibrio. In questo senso il colesterolo buono, quello HDL, ci aiuta tantissimo. Ci sono persone che hanno, e normalmente il rapporto tra quello totale e quello HDL deve essere intorno ai 4-4,5. Quindi, dottor Speciani, diamo un'indicazione molto semplice per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Spesso il colesterolo si misura il valore totale, poi abbiamo una frazione buona, una frazione, esatto, cattiva. Perfetto. Ecco, di questi tre numeri che cosa ce ne facciamo? Ce ne facciamo in questo modo, che se noi prendiamo il numero del colesterolo totale, lo dividiamo per il numero di quello HDL, che è quello buono, se siamo in un valore che è vicino ai 4-4,5, siamo protetti dalle malattie cardiovascolari. In situazioni particolari, specifiche, è bene che uno si confronti col proprio medico, però a volte ci sono persone che iniziano a togliere di torno i grassi, tutti, anche quelli che usiamo per condire piuttosto che il rosso d'uovo, semplicemente perché hanno slivellato di poco e credono di essere in una grave situazione di patologia, che non è detto che sia vero. E infatti la buona notizia è che possiamo fare qualche cosa, tante molto cose. Molto, e in linea con noi intanto possiamo fare una cosa, che è salutare e dare il benvenuto al dottor Luca Avoledo, naturopata, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Dottor Avoledo, ci anticipi, che cosa ci racconterà? Vorrei parlarvi, prendendo spunto dalle cose interessanti che avete detto, tre rimedi naturali per diverse localizzazioni dei grassi nel corpo. Un rimedio per quando i grassi sono su fianchi e pancia e quindi in presenza di problemi di sovrappeso, uno per quando sono nel sangue e uno per quando i grassi sono nel fegato. Voilà. Allora, dottor Avoledo, ribuongiorno. Ribuongiorno, sì. Dicevamo di tre rimedi naturali per tre diverse distribuzioni di questo famigerato grasso nel corpo, che però appunto, come diceva il dottor Speciani, non sempre è nocivo. Quando i grassi ce li portiamo

questi casi, il lievito di birra, i legumi, il tuorlo d'uovo, appunto per parlare di grassi sani. Quindi si può introdurre anche a tavola. Naturalmente, dottor Avoledo, come lei ha anticipato e come il dottor Speciani confermerà, questi sono rimedi che non sostituiscono una dieta varia equilibrata né possono giustificare un'assoluta sedentarietà, dottor Speciani. No, assolutamente, anzi c'è da dire proprio che un'attività fisica da anche moderata, perché la gente dice ma io non posso, basta camminare però con significatività tutti i giorni, fare riprendere delle buone abitudini, va ad interferire sui meccanismi che favoriscono il deposito di grasso, quindi perché non farlo? Quindi il dottor Avoledo e i rimedi sono aiutati che il ciel t'aiuta. I rimedi sono un aiuto importante una volta che l'alimentazione è a posto, è bilanciata, una regolare attività fisica è in atto, perché sennò non è sensato, come dire, ricorrere a una pastiglia ancorché naturale pensando che possa far miracoli. Ecco. Grazie dottor Avoledo, buona giornata. Grazie a voi, buon proseguimento, arrivederci. E noi abbiamo Angelo da Bologna, mi dicono che vuole rispondere al nostro quizzettone, un quizzettone doppio. Un po' complicato perché contiene forse un trabocchetto, ma vediamo se Angelo da Bologna ha la risposta giusta. Angelo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, brava come sempre. Grazie Angelo, anch'io venga tutti dico, i giorni. Anch'io. Allora, altre cose, un bellissimo argomento oggi. Allora, Angelo, quale olio tra quello di oliva, arachide, di palma si altera prima con la cottura e quale olio cotto produce meno danni per la salute? Sempre tra oliva, arachide e palma. Allora, il primo dovrebbe essere l'olio di palma che si degrada prima. E il secondo è l'olio di oliva. Allora, Speciani sa la risposta? Allora, diciamo che metà, abbiamo risposto quasi giusto per un pezzo. Forse vale la pena di fare una precisazione. Volutamente c'era un trabocchetto perché abbiamo messo in considerazione la degradazione come un elemento negativo. In realtà diciamo che diamo valore al fatto che gli oli che hanno dentro molte sostanze antiossidanti non fanno male in cottura. Però a volte proprio quelli che hanno dentro molte sostanze antiossidanti si alterano prima quando cresce la temperatura. Ha dato un suggerimento, grazie al nostro ascoltatore che è intervenuto e in questa puntata in cui vogliamo parlare anche dell'altra faccia della medaglia e lo facciamo dei grassi, vi voglio raccontare di un utilizzo del grasso che aiuta a ringiovanire e a migliorare anche le cicatrici, magari di interventi. Ricordate le indicazioni che vi ha dato il dottor Speciani per il nostro quizzettone. Abbiamo un libro, come sempre, della libreria di Essere Benessere, Colesterolo amico nemico, Giunti editore, scritto dal dottor Attilio e Luca Speciani, entrambe. Avreste mai pensato che il grasso rende belli? In linea con noi abbiamo il professor Marco Klinger dell'Università di Milano, responsabile della chirurgia plastica all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Buongiorno prof. Buongiorno. Allora, questo grasso che viene prelevato, lavorato? Sì, grasso si potrebbe dire grasso è bello. Grasso è bello. Io sono nato in mezzo a grasso perché mio papà studiava gli obesi e si occupava di dietologia. In realtà il grasso prelevato dall'addome, dai fianchi in particolare, è un grasso che può diventare anche utile ed è stato determinato con ricerche, questa volta udite soprattutto italiane, Verona, Milano, in particolare noi Milano per quanto riguarda la cura delle cicatrici di tante patologie, si è dimostrato che il grasso è utile per esempio nello sciogliere le cicatrici, quindi le cicatrici ipertrofiche o quei cheloidi che voi definite cheloidi sulle facce dei pazienti ustionati, sì, o nei pazienti traumatizzati, possono essere sciolte e migliorate nettamente attraverso l'impiego del grasso che si ciuccia, tra virgolette, in, sì, un angolo del fianco, viene centrifugato in modo da togliere la parte liquida e con degli aghi viene messo dentro le cicatrici che si sciolgono e quindi riducono il loro volume. Ciò determina il fatto che le cicatrici sono più piatte, che tirano di meno, soprattutto ha un grande effetto antidolore, per esempio nei casi delle pazienti mastectomizzate che, certo, hanno dolore nella sede di ferita. Quindi è stata veramente una cosa interessante. Poi se posso proseguire, voglio dire, il grasso, quindi in termini di volume, di migliorare, sì, la qualità della pelle e di togliere anche dolore, è diventato grandemente utile anche negli aspetti estetici, perché certamente poter cambiare la qualità della pelle ringiovanisce. E lo credo. E poi viene utilizzato anche per spianare le rughe, per ridefinire volumi. Assolutamente, tant'è vero che non c'è quasi più nessuna procedura nostra di chirurgia plastica, che sia ricostruttiva come quelle che vi dicevo, che sia estetica, in cui tu metti le mani su una faccia mettendo a posto gli occhi o il volto col lifting, eccetera, non aggiunga grasso nei solchi nasolabiali, quelli di fianco al naso, nelle rughette delle labbra, anche nella mandibola, nelle zone che mancano, cioè della mandibola piccolina, eccetera, non si usano quasi più protesi, ma si usa grasso per migliorare di quei millimetri che servono. Quindi meglio averne un po'. Meglio averne un po', assolutamente, perché poi ci scontriamo ogni tanto con pazienti, per esempio gli ustionati, così magri, ma così magri, ma così magri, che grasso quasi non riesce a trovarne. Altro problema, per esempio, sono gli sportivi professionisti, in cui il grasso servirebbe veramente in esiti di trauma o cicatrici importanti o riparazione dovute a interventi ortopedici. Però nei professionisti, come voi sapete, non hanno grasso, non hanno un filo, ecco, di grasso, vedi? Quindi è una parola vera questo, e le maniglie dell'amore possono, le maniglie dell'amore sono fantastiche, essere sono utili, e tutti hanno un diversi di utilizzi, serve uomini e donne, perché al momento giusto servono, capito? Grazie professor Klinger per essere stato con noi e complimenti. Grazie Nicoletta, buon lavoro, buona giornata. Questo colesterolo ci fa impazzire, però, che è quello che non vediamo, ma di cui vediamo il valore quando facciamo gli esami. Due esempi, perché sono stati richiesti a gran voce, qui abbiamo 700 telefonate, e quindi facciamo un esempio della persona che ha 220 di colesterolo totale, sì, e 55 di HDL. Allora, 220 diviso 55 uguale 4, che è un valore perfetto, cioè il rapporto tra colesterolo buono e colesterolo totale è giusto, perfettamente indicato. Vuol dire che uno che ha 220 non deve sentirsi in angoscia immediatamente di essere fuori, ma dall'altra parte uno che ha 180 di colesterolo totale, quindi teoricamente è giusto, solo 20 di colesterolo buono perché non cammina, non mangia pesce, non utilizza certi tipi di vegetali, quello è a rischio, perché 180 diviso 20 uguale 9, e quello è un valore molto elevato di rischio, anche se il colesterolo è buono. Allora fate i conti insieme a noi, 800 24 00 24, abbiamo Patrizia da Udine. Patrizia, buongiorno. Oh, buongiorno. Buongiorno Patrizia, intanto voglio salutare il nostro amico Stefano Polato, il nostro cuoco di Mangia con me, che è in linea con noi. Stefano, ciao. Ciao, buongiorno. Che ci dirà come utilizzare o sostituire alcuni grassi in cucina. Si avvicina mezzogiorno, per cui se avete bisogno di... se avete bisogno di qualche indicazione, Stefano è qui. Patrizia, lei invece si vuole misurare con il nostro quizzettone. Sicuro, oggi è trasmissione proprio adatta a me. Bene. Perché io ho i trigliceridi a 536 e il colesterolo cattivo a 387. Va bene. Però volevo dare la risposta. Sì. Io per me l'olio d'oliva è quello che più si altera alle temperature. Sì. Bene. E poi è la seconda parte, quello che fa meglio, anche se cotto? D'arachide. Ci siamo quasi, questa è quasi arrivata alla fine, ci siamo giusti. Devo dire che olio di oliva e olio di arachidi sono effettivamente poi come azione salutistica sono abbastanza vicini, nel senso che cotti sono utilizzabili in maniera positiva. Direi che la diamo quasi per vittoria questa. Perché fa le preferenze il dottor Speciani, perché Patrizia è una signora, allora Patrizia, colesterolo amico o nemico, che serve anche a Patrizia perché contiene delle informazioni molto utili. La risposta giusta, oliva e oliva. Cioè l'oliva effettivamente si altera subito, però ha talmente dentro l'oliva extravergine, talmente tante sostanze buone, che anche se cotto, anche se fritto in alcune situazioni può fare del bene. Stefano, eccoti, sei d'accordo? Tu che... Assolutamente sì, ecco, l'olio d'oliva per noi cuochi è sempre un toccasana, è sempre gustosissimo e buonissimo. Senti, noi abbiamo 2 minuti e mezzo per raccontare vari utilizzi dei grassi e dei condimenti in cucina. Iniziamo dal soffritto. Sì, allora, ho cercato di identificare qualche errore che spesso si commette in cucina. Uno di questi è proprio il soffritto, perché quando soffriggiamo la cipolla rischiamo di produrre tossine, come dicevamo prima. Se l'olio raggiunge una temperatura troppo alta, produciamo acroleina. Quindi un trucchetto è quello di aggiungere un goccio d'acqua quando sentiamo il tipico sfrigolio dell'olio della cipolla, oppure un altro liquido che è previsto nella ricetta, può essere vino bianco, può essere del brodo vegetale o brodo di carne. Poi un altro trucchetto è quello di alleggerire i nostri risotti, che spesso per tradizione alla fine aggiungiamo un bel pezzo di burro per avere un bel risotto all'onda e mantecato bene. non ne vedo la necessità in certi casi, visto considerato che con le verdure il burro rischia di essere troppo pesante sia come gusto che come quantità di grassi apportati. Quindi possiamo sostituire proprio durante la mantecatura il burro con o olio extravergine di oliva oppure con dello stracchino, che mi dà ugualmente la cremosità desiderata, però riduciamo i grassi dall'80% contenuti nel burro al 17% contenuti nello stracchino. Vedo che il dottor Speciani è d'accordo, le piacciono, perché le sta venendo fame. E allora andiamo con i dolci, Stefano, sì, sì. Dal risotto alla torta o alla crema. Sì, anche qui gli oli vegetali ci aiutano molto. Una proporzione, ad esempio, per dolci lievitati come muffin, o sempre dolci da forno, possiamo sostituire il burro con l'80% di olio. Mi spiego meglio: se la ricetta prevede 200 grammi di burro, possiamo usare 160 grammi di olio. Sì. E lì possiamo decidere che olio utilizzare a seconda della ricetta, o olio extravergine di oliva o olio di zucca, olio di semi di nocciole, olio di noce. Perché, ecco, una buona indicazione, Stefano, è quella, ma chiedo aiuto anche al dottor Speciani, è di variare anche gli oli, l'olio di nocciole, l'olio di semi, di lino, Stefano. Sì. Questo ci serve anche un po' per preparare anche delle vinaigrette. Ah, tutte le indicazioni di Stefano Polato le trovate sul nostro sito, i consigli del dottor Speciani sul Daily Lab e sui suoi numerosi libri, oltre che sul suo sito. Io che dire, vi devo salutare, mi dispiace molto, starei ancora con voi, ma tornerò domani. Grazie e buona giornata.